si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. Buongiorno caro ascoltatore allo zoo comunale. Vi leggo il bollettino quotidiano. Annuncio, prima pagina del giornale: Berlusconi lascia il PDL. Un titolo sotto: solo le donne possono salvare la destra. Ma come presidente ancora? È una promessa, una minaccia. Basta che lei ne stia alla larga. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti da che primavera. Ecco, da che primavera? Dal Corriere, leggete, leggete, ci sono le proposte di un politico nuovo che emerge sulla scena e propone di fare le seguenti cose per lanciare l'economia italiana: creare una banca pubblica, sto leggendo, per l'economia come la KfW tedesca, moltiplicando per 3 o 4 la cassa depositi e prestiti, invertire il modello dei contratti nazionali, non servono verticali, servono orizzontali a favore della piccola e media impresa. Poi bisogna abbattere l'IMU sulla prima casa non di lusso, grazie a un'imposta bancaria sui profitti fatti speculando e nei paradisi fiscali. Poi mettere il TFR nella busta paga mensile per rilanciare i consumi, un prestito alle imprese dall'INPS, della nuova cassa depositi e prestiti, eccetera, eccetera. È un nuovo politico, non ha mai avuto alcuna responsabilità in tutti questi anni, quindi ha tutte queste nuove proposte. Si chiama Giulio Tremonti, ricordate questo nome. Vengo anch'io. Anche il premier ieri ha fatto una bella promessa per qualche ora, poi è durata pochi minuti perché ha detto: ah beh sì, si può fare il taglio delle tasse dopo qualche ora, beh naturalmente non finché ci sono io in questa legislatura. È un po' come Tremonti, Tremonti c'era, vi propone il contrario, lui c'è e non vi propone la cosa giusta, almeno per me ovviamente.